Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Sette e nove minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia. I temi di questa giornata economico-finanziaria, di cosa parleremo oggi? Chiaramente anche della decisione della Banca Centrale Europea di lasciare i tassi al minimo storico. Il tasso di rifinanziamento infatti resta lo 0,05%. E il tasso sui prezzi marginali restano allo 0,30% e sui depositi bancari meno 0,20%. Dice la Banca Centrale Europea che il quantitative easing, quindi l'acquisto di titoli di Stato da parte della BCE e delle banche centrali dei paesi dell'area euro per generare liquidità, sta funzionando. E da questo punto di vista, a dicembre il Consiglio riesaminerà comunque l'intero programma, sta spingendo il credito. Ascolteremo più avanti le parole di Mario Draghi su questo. Draghi ha anche aggiunto che alcuni membri del board del Consiglio di amministrazione, chiamano così, della Banca Centrale Europea erano d'accordo per un intervento immediato già adesso, ma non era il tema prevalente. Ancora, per quello che riguarda la giornata di oggi, ci occuperemo della vicenda già raccontata dai nostri GR24, sia dell'ANAS che di Sanremo. Dell'ANAS ce ne siamo occupati nella nostra poco invidiabile classifica sugli sprechi della pubblica amministrazione, che domani, ahimè, torna come ogni venerdì decine di volte, sia per la gestione interna, sia per i 19 anni che l'ex numero uno Ciucci passò all'ANAS, ma tra l'altro la vicenda grottesca, per non dire altro, delle tre cariche che aveva, e quindi presidente, amministratore delegato e direttore generale. Poi quando si licenziò come direttore generale si fece dare un'indennità di risoluzione senza preavviso, cioè non aveva avvisato se stesso, lo ricorderete Ciucci, 780.000 euro quella volta. Insomma, non era d'accordo con se stesso, una gestione insomma, tra l'altro, che nei fatti poi si rivelò deficitaria. Il ponte inaugurato a Natale, che il 4 gennaio è crollato a Capodanno sulla Palermo Agrigento, fu uno dei casi finali. Un Ciucci sempre rassicurante: no, ma la 3 la stiamo finendo. Lo avevamo anche ospite più di una volta, ma insomma, perché ne parliamo? Perché oggi sull'ANAS è scoppiato un altro caos, non volevo usare un'altra parola, perché la Guardia di Finanza ha eseguito un insieme di ordinanze di custodia cautelare emesse dal GIP del Tribunale di Roma nei confronti di dirigenti e funzionari dell'ANAS coinvolti su diversi episodi corruttivi. Anche alcuni imprenditori sono stati coinvolti, titolari di società vincitrici di appalti per importanti opere pubbliche, e avvocati. C'è anche l'ex sottosegretario del Ministero delle Infrastrutture, Luigi Meduri, tra i destinatari dei provvedimenti di custodia cautelare, quindi ai domiciliari. Viene definita nella ricostruzione fatta dagli uomini delle Fiamme Gialle il ruolo di Meduri come quello di un oscuro faccendiere e interfaccia politica della Dama Nera, ossia il dirigente dell'ANAS Antonella Acroglianò, considerata dagli investigatori al vertice dell'organizzazione all'interno dell'ANAS, quella di corruzione. Quindi qui l'ipotesi non è di alcuni funzionari corrotti, ma di un'organizzazione interna all'ANAS che dirigeva gli appalti e si distribuiva le mazzette. Su questo è intervenuto anche, lo ascolteremo, il procuratore di Roma Giuseppe Pignatone, che ha detto è deprimente vedere quanto quotidiano fosse il livello di corruzione. E poi il presidente dell'ANAS attuale, Gian Vittorio Armani, ha detto di offrire massima collaborazione con le Fiamme Gialle, lo ha riferito il ministro Delrio. Ascolteremo anche questo. Poi c'è la vicenda del comune di Salerno, di Sanremo, dove gli indagati sono 195, che uno dice: ma quanta gente lavora al comune di Sanremo? Se gli indagati sono 195, almeno 195. C'è quello che timbrava in mutande, lo sappiamo, però 195 indagati, di cui 10 funzionari accusati di assenteismo, 35 sono domiciliari, 8 hanno l'obbligo di firma, 75 hanno ricevuto l'avviso di conclusione indagini. Indagato anche un vigile urbano, truffa aggravata e continuata ai danni dello Stato e falso in atto pubblico. Dunque, sembra di dover anticipare la rubrica di domani, ma insomma c'era quello che andava in canoa e si faceva timbrare il cartellino da una collega compiacente, andava in canoa e vantava proprio la sua performance, come i risultati che otteneva nelle sue prestazioni canoistiche, si vantava di questi sui social networks, perché sono pure stupidi questi, sono ladri ma anche stupidi, nel senso che se ti vanti di aver fatto dei record pagaiando e dovresti essere al lavoro, ha messo pure qualche, aggiungeva anche qualche ora di straordinario, capito? Detto questo, l'operazione, io trovo bellissimo il nome che la Guardia di Finanza ha dato all'operazione, perché l'ha chiamata Stakhanov. Se qualcuno non lo ricorda, Stakhanov era quel famoso operaio della Russia comunista, dell'Unione Sovietica staliniana, che venne utilizzato come esempio che totalizzò non mi ricordo quante ore di lavoro ininterrottamente. E Stakhanov, il modello Stakhanov, era il modello che dovevano seguire gli operai dell'Unione Sovietica, di dedizione totale al lavoro. Ecco, mi piace molto il titolo, perché siccome questi timbravano cartellini, facevano timbrare altri cartellini e andavano in canoa a fare i cavoli loro, almeno un po' di ironia, prenderli per l'ingiro non fa male, e chiamare l'operazione Stakhanov va bene, l'unica cosa su cui sorridere, perché il resto è obiettivamente demoralizzante. 349-238-6666 per i vostri sms, la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24. Parleremo chiaramente anche di borsa e partiamo con una buona notizia: lo spread oggi è tornato sotto quota 100 punti, a 99,9 punti, e questo non capitava da marzo scorso. Questa è una buona notizia per i costi che ha l'Italia per rifinanziare il suo debito. Partiamo dalla borsa, meno 4% la Pop Milano, che è l'unico titolo a essere negativo sostanzialmente, perché va bene oggi tutto il mercato. Milano guadagna l'1,80%, Parigi il 2,50% come Francoforte, Londra invece contiene, rialza lo 0,50%, Dow Jones più 1,30%. Ancora euro su dollaro di nuovo sotto quota 1,12 a 1,11,58. Tra i titoli molto forti, Telecom Italia più 5,20, ripresa, rimbalzo soprattutto sul lusso, con Luxottica che guadagna il 4,70%, Moncler il 3,13, Ferragamo il 3%. Ancora bene CNH Industrial più 4%, Azimut più 3,90, Generali più 3,80, Monte dei Paschi più 3,20, ST Microelectronics più 2,70 come Enel, il 2,30 lo guadagna Prismian, il 2,20 UbiBanca, il 2% rialzo di Unipolsai e di Tenaris, ma anche di UniCredit e Snam. E visto che parliamo di borsa, anche oggi sta andando bene il titolo Ferrari, che ha debuttato ieri a Wall Street, è a $56,6 in questo momento, in rialzo del 4,7%. Sul collocamento in borsa di Ferrari, ma anche sulle prossime strategie del gruppo Fiat Chrysler, si concentrano i 100 secondi di Radio 24, Sole 24 Ore, oggi a firma del vice direttore Alessandro Praterotti. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore, con Alessandro Plateroti. Il debutto bruciante della Ferrari a Wall Street chiude un capitolo del riassetto del gruppo Fiat, ma ne apre subito un altro. Quale sarà la prossima mossa di Marchionne per sistemare stabilmente la Fiat all'interno di una realtà più grande e soprattutto globale? L'IPO Ferrari, in questo senso, permette alla Fiat di abbattere il debito e diventare più attraente per un potenziale partner. Ma chi sarà? Visto l'impegno di Marchionne nel diventare il punto di riferimento dei sindacati americani per il rinnovo del contratto nazionale di lavoro, tutto lascia pensare che il matrimonio avverrà in America. Candidata all'altare il gruppo GM, che da una fusione con Fiat potrebbe guadagnare non solo la Jeep Chrysler, ma anche rafforzare la presenza in Europa nel segmento medio-piccolo, in cui Fiat è protagonista con 500 e panna e in cui il colosso Volkswagen ha oggi grosse difficoltà di credibilità e di vendita. Ma la GM resiste e le offerte di dialogo non procedono. Ma se Marchionne riuscirà a trovare l'accordo con i potenti sindacati americani, le resistenze del colosso di Detroit potrebbero cadere nel vuoto e la prospettiva di un'offerta Fiat di fusione con GM prenderebbe quota rapidamente. Le prossime settimane saranno insomma determinanti. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e rds.it. E dall'America oggi arriva un'altra notizia più che positiva e riguarda sempre la disoccupazione americana, che sostanzialmente si conferma ai minimi dal 1973. La media dell'ultimo mese, non è più il dato sulla settimana, dell'ultimo mese delle richieste di sussidi di disoccupazione è scesa a un livello di 259.000, o quindi una media del mese che non si vedeva dal 1973. Pensate un po'. Qualcuno dice che siamo stati un po' troppo buoni con Sanremo. Aspetti un attimo, vedrai che tanto buoni con Sanremo non siamo. Ci siamo solo permessi di sorridere sul fatto che questi personaggini, che l'operazione che ha incastrato questi personaggi venisse chiamata Operazione Stakhanov. Molti mi stanno chiedendo invece, ma almeno verranno licenziati? E questo è il problema. Capirlo, e lo dico con molta tranquillità anche ai sindacati. Il Jobs Act andava in un paese serio applicato anche al pubblico impiego, o tutti o nessuno, o tutti o nessuno. Se è valido il Jobs Act come riforma per il settore privato, dove già vale anche per il pubblico, non me ne frega nulla, ma è entrato per concorso e allora esci per concorso. Non è che siccome sei entrato per concorso non ti si può più toccare a vita, ma che è un concorso a vita e basta con questa cosa. Negli altri paesi una cosa del genere ma neanche si discuteva, erano già sospesi, licenziati, danno erariale, il comune parte civile e fuori dalle scatole, fine. E su questo vorremmo sentire una voce forte dei sindacati: cacciateli perché danneggiano tutti i bravi funzionari del pubblico impiego, fate una legge ad hoc che venga rimosso subito quello che viene colto a rubare o a creare un danno allo Stato proprio perché sei entrato per concorso, sei un ufficiale pubblico e devi essere ancora più attento. Ok, invece non noto grandi dichiarazioni da parte sindacale, sicuramente non il numero di dichiarazioni che abbiamo visto quando ci fu il Jobs Act. Ripeto, in un paese serio il Jobs Act andava applicato anche al pubblico impiego. Fine. E poi pagare il danno, oltre che perdere i benefici, in senso. Va bene, andiamo avanti invece con quello che riguarda le notizie di oggi e veniamo allo scandalo Dieselgate. Allora, in Italia sono saliti a 709.712 i motori sotto accusa, lo ha comunicato oggi Volkswagen Italia, precisando che sono stati inclusi anche tutti i veicoli con motore EA189 indipendentemente dagli standard di emissione. Sempre in Italia, secondo quanto emerso da un convegno dell'OCSE, le imposte non pagate, quindi la parte di tassazione, non è la parte di imponibile, non è quanto non entra allo Stato, ma quello che dove non si pagano le imposte, non viene caricata l'imposta, varia tra i 100 e i 240 miliardi di dollari per le sole multinazionali attive nei paesi del G20, il che vuol dire che l'elusione fiscale riguarda in primo luogo anche l'area euro, e abbiamo visto ieri che è successo con la tax rules, ma complessivamente se prendiamo i G20, il modo che hanno le grandi multinazionali di evitare con varie scappatoie di pagare le tasse dovute laddove producono e fanno fatturato è varia tra i 100 e i 240 miliardi di dollari. Oh, Ora veniamo alla finanziaria. Insomma, c'è un po' di caos sotto il cielo stellato della legge finanziaria, perché come ha capito bene chi oggi ha ascoltato il sottosegretario Giacomelli, ospite di Alessandro Milano e Oscar Giannino in Attenti alle 2 questa mattina, insomma, non è che le idee siano molto chiare su come e chi pagherà il canone. Abbiamo capito che sarà in bolletta, però Giacomelli ha detto: attenzione, pagherà il canone solo chi ha il televisore e non chi ha altri device. Cosa sono i device? È il fatto che tu possa vedere sul tuo computer, sullo smartphone, la TV e i programmi, semplicemente li puoi guardare anche lì. E si dice: ma pagheranno anche quelli che si guardano i programmi sull'iPad o qualunque strumento esso sia? No, secondo Giacomelli no. Ha detto: attenzione, non pagherà il canone solo chi ha il televisore e non altri device. Ieri sera intanto il premier era tornato sul tetto di 3.000 euro sul contante, dicendosi pronto a porre la fiducia. No, per me non si cambia, su questo siamo pronti anche a mettere la fiducia. Io credo, con tutto il rispetto, in particolar modo per Cantone, anche per Roberti naturalmente, ma Cantone fa il capo dell'autorità anticorruzione, come dire, su nostra richiesta, e ci sono legato da un rapporto ancora di maggiore diciamo consuetudine, per non dire amicizia. Io rispetto molto le opinioni di queste autorevolissime personalità, credo che non sia vero, mi riservo il diritto di avere un'opinione diversa. È un vantaggio perché gli italiani devono avere la possibilità di poter spendere i denari che hanno, e ce ne sono tanti, c'è un sacco di contante fermo, ce lo dicono le banche, ce lo dicono tutti gli istituti interessati, che sono bloccati perché c'è la preoccupazione e l'impressione, diciamo così, che l'Italia, come posso dire, sfavorisca e non agevoli i consumi. Con massimo rispetto del Presidente del Consiglio, non basta, non vuol dire nulla. Cosa vuoi? Allora portatelo a 5.000, allora portatelo a 10.000. Non si regge in piedi questa cosa dei 3.000. Perché 3.000 e non 10.000? Se è vero che, come pensa il Presidente del Consiglio, ci sono tanti denari e contanti bloccati, portalo a 10.000, portalo a 15.000, 12.500 come era una volta. Portalo lì, a sto punto falla tutta. Ma siccome sotto sotto noi abbiamo capito che è una manovra anche elettorale, faccio notare una cosa: la legge di stabilità prevede, cioè ha eliminato una norma inserita dal governo Letta che prevedeva l'obbligo di pagamenti tracciabili, bonifici, assegni, per gli affitti. L'hanno levata. Allora, caro Presidente del Consiglio, come la chiamiamo questa? Perché se devo pagare l'affitto, che sia 800 euro, che sia 600 euro, che sia 1500 euro, che sia... la norma non diceva che puoi pagare, diceva tu devi renderlo tracciabile. Perché l'avete levata? Oltre che per l'autotrasporto. Salta l'obbligo infatti di pagamenti con strumenti elettronici nella filiera dell'autotrasporto, che era stato inserito dallo stesso PD per la prevenzione delle infiltrazioni criminali del riciclaggio. Allora, dire che l'affitto si può pagare in nero, in contanti, perché poi io voglio vedere quello che paga in contanti l'altro gli dà la ricevuta, visto che lei conosce il paese, il Presidente del Consiglio lo sa benissimo che non è così, state dicendo, state invogliando a tornare a far pagare in nero l'affitto. Obiettivamente, a meno che io non abbia bisogno di scaricarlo per altri motivi, ma è un dire ed è un messaggio, al di là dell'aspetto economico, devastante per il paese che ha il record di evasione fiscale in Europa. Dire: potevate fare una battaglia seria sulla riduzione delle commissioni che le carte di credito pagano, potevate inserire l'obbligo anche la penale e un AMU per chi non si dota di POS. Avete detto che è obbligatorio, ma non c'è nessuna multa e nessuna penale. Si potevano dare altri messaggi, si poteva cercare di inserire il contrasto all'evasione, cioè fammi scaricare la parte di IVA, una parte di quello che io spendo per l'idraulico, l'artigiano, il medico, l'avvocato, non è che sono semplicemente questi poveri artigiani e commercianti. Si paga il nero il dentista, l'avvocato, il notaio in questo paese, no? Tutto, il commercialista se ne ha bisogno. Allora, che cosa vuol dire che in questo modo ci sono i contanti fermi? Ma noi scrivo gli ascoltatori, che sono tutti dichiarati perché hanno magari la ritenuta alla fonte, dicono: a me non mi frega nulla di pagare, di essere tracciato, tanto non ho niente da dichiarare. Chi è che ha paura di essere tracciato? Chi ha qualcosa da nascondere? Sono tutte balle sta cosa della privacy, non voglio sapere. Ho capito, il regalo all'amante che non lo vuoi, che non vuoi che figuri in visa, l'atto di corruttela che non vuoi che figuri sulla carta di credito, sul bancomat, ma dai. E poi che i 180 miliardi di evasione siano un numero inventato di sana pianta, di evasione no, di imponibile lo diciamo da anni. Comunque sentiamo anche questo passaggio del Presidente del Consiglio 8 e mezzo. 180 miliardi varrebbe l'evasione fiscale in Italia. Un numero inventato di sana pianta, una roba che non sono disponibile, proprio una roba che non esiste, cioè un paese che ha 700 miliardi, non esiste che sia quel numero lì, sono numeri inventati come quelli che dicono la corruzione vale, ma come fai a saperlo? Cioè sono dati stimati, ma mi faccia dare la risposta, perché anche quella 180 miliardi, in Europa, l'Europa dice che l'evasione totale vale 120 miliardi e l'Italia sarebbe più dell'Europa da sola, sono numeri inventati a caso. Mi dispiace, 180-200 miliardi è la stima dell'imponibile evaso, non di quanto non entra nel cassa dello Stato. È vero, e ha ragione il Premier, che l'evasione in Europa è di 120 miliardi, quello che non entra nelle casse degli Stati, di cui circa tra i 60 e gli 80 miliardi in Italia, cioè noi abbiamo metà dell'evasione europea. Sono statistiche che commentiamo e dati che commentiamo da anni. Qual è? Vabbè, andiamo avanti con la manovra. Il blocco sull'aumento delle tasse locali varrà per tutti, fatta eccezione per situazioni straordinarie legate all'addizionale regionale per le regioni in eventuali disavanzi sanitari, lo ha chiarito sempre il sottosegretario Zanetti oggi, per cui in alcune regioni dove ci sono disavanzi sanitari devono rientrare, lì non c'è il blocco delle addizionali, potranno aumentare le tasse regionali. Viene semplicemente confermato il regime che si è già applicato nel 2014 e nel 2015, doveva appunto avere una conferma, nel senso che era stato provvisoriamente previsto per 2 anni, quello che gli italiani hanno pagato sulle seconde case nel 2014-2015 continueranno a pagarlo uguale, quindi nulla di più, nulla anche di meno, perché l'intervento è solo sulla prima casa. Ma non ci sarà la possibilità in sostanza che i comuni oppure le regioni che si vedono tagliare magari dei fondi, quelli appunto che non arriveranno tramite le tasse sulla casa, poi si rivalgano? Affinché questo sia escluso lo si prevede espressamente in manovra con una misura di blocco, fatta eccezione per situazioni straordinarie legate magari all'addizionale regionale per le regioni in eventuali disavanzi sanitari. Questo è uno spazio che necessariamente deve essere lasciato aperto ove ci siano dei problemi legati alla gestione della loro sanità. Tutte le altre imposte, tutte le altre addizionali, comprese naturalmente sempre le imposte locali dei comuni, sono bloccate e anche queste tendenzialmente per le regioni non aumenteranno. Allora, nel frattempo mi stanno scrivendo che i dipendenti del comune di Sanremo sono 428 e quindi in effetti quelli arrestati oggi a conclusione delle indagini sono una quota parte, avete ragione, sono 195. E non sono un esperto di comuni, mi sembrano un po' tanti 430 dipendenti in un comune come quello di Sanremo, che non è un comune enorme. Però evidentemente uno su due l'hanno beccato. Qualcuno mi scrive, devono ancora fare il processo. E poi mi insulta perché dice non vale più la garanzia, l'atteggiamento garantista. Dico, no, ho capito, per carità, devono ancora fare il processo, per carità, li hanno filmati, va bene tutto, perché non stiamo parlando di un caso, di un'inchiesta, di un reato gravissimo, li hanno filmati che timbravano e uscivano, che timbrava qualcun altro al posto loro, lo dico, così, certo che vale. Tutti i gradi di giudizio, ci mancherebbe, nessuno vuole sospendere il diritto, però t'hanno filmato. Le regioni italiane. Allora, il presidente Chiamparino della conferenza delle regioni, Sergio Chiamparino, ha annunciato due cose sostanzialmente. Ha chiesto che il governo si riprenda il settore della sanità. Il governatore della Toscana Enrico Rossi ha detto che Chiamparino ha detto che se il governo ha lo stesso giudizio della Lorenzin sul governo della sanità, si prenda la sanità e la gestisca. Io sposo in pieno queste parole, cioè se questo è il giudizio che il governo ha della sanità gestita dalle regioni, si assuma la responsabilità e gestisca la sanità direttamente. E poi sulle Chiamparino ha presentato le dimissioni da presidente della conferenza delle regioni, sono a momento congelate da parte, come richiesto da parte degli altri governatori. Ha detto che però sulla legge finanziaria il bicchiere è più mezzo pieno che mezzo vuoto. Pensiamo che, per dirla con un'espressione di sintesi, il bicchiere sia più mezzo pieno che mezzo vuoto. Quindi è un giudizio che rispetto in particolare alle finanziarie passate, anche alla finanziaria dello scorso anno, indubbiamente, riflettendo il carattere espansivo che la finanziaria vuole avere, anche per le regioni ha degli elementi positivi, in particolare nell'extrasanità, che consistono, adesso non ricordo gli articoli, nella modalità di definizione del pareggio di bilancio, che limitandoli alla sola competenza consente intanto una semplificazione che sennò avrebbe reso praticamente ingestibile il bilancio, e secondo di liberare risorse per gli investimenti. Allora, vedo che c'è ancora molta polemica degli ascoltatori sul contante, adesso ci arriviamo, anche perché c'è una dichiarazione anche del Presidente dei Commercianti. Qualcuno mi scrive: Barisoni, perché non si mette lei un POS e si fa pagare lo stipendio con il POS? Guarda, io non ho bisogno, perché come tutti i dipendenti, la mia busta paga prevede la ritenuta alla fonte, quindi tutto, contributi, arriva solo al netto. Di cosa stiamo parlando? No. Ah, spiegatemi perché siete così contrari al pagamento con Bancomat, allora, visto che lì le commissioni non ci sono, perché il Bancomat è tracciabile. Ma qualcuno che ha un fastidio per essere tracciato a casa mia è qualcuno che ha qualcosa da nascondere, magari anche alla moglie, non dico al fisco, magari anche alla moglie, alla compagna, che cavolo, insomma, qualcosa da nascondere ce l'ha. Meteo, pubblicità e poi di nuovo su questi temi, e poi iniziamo a parlare anche di un'altra cosa che farà arrabbiare alcuni ascoltatori, immagino. Oggi è uscito un rapporto molto importante della Fondazione Moressa sul quant'è il contributo al PIL dei migranti, chiaramente sia stranieri comunitari sia stranieri extracomunitari, il contributo all'economia di tutte le persone che sono regolari, non ci stiamo occupando chiaramente degli irregolari. Dopo il meteo. Index protegge e risana edifici in più di 100 paesi nel mondo. Indexpa.it vi presenta Focus Economia. Esattamente l'impianto della normativa che conosciamo, cioè è il possesso di un televisore che è il requisito. Noi anche, abbiamo anche solo se il tablet, testo, mi scusi, il tablet può ricevere filmati, sì. Può vedere la RAI online? Assolutamente, non solo il tablet, ormai insomma, molti device. Però nella norma che abbiamo introdotto abbiamo solo aggiunto una presunzione del possesso del televisore, che è il contratto di fornitura elettrica per l'abitazione dove si è residenti. Naturalmente questo è il presupposto in futuro per prendere in esame anche l'evoluzione tecnologica e quindi altri device, ma la norma attuale prevede che il requisito è il possesso del televisore. Il televisore. E questo era appunto il sottosegretario Giacomelli questa mattina, attenti a noi due, con Oscar Giannino e Alessandro Milan, che dice solo per un televisore, non per i device. La vedo ancora molti messaggi sul contante, non è che posso fare tutta la puntata sul contante. Mi sembrano molto deboli le argomentazioni del Premier, possiamo dire questo, perché se allora il contante è un problema, leva la soglia, sei più coerente, perché da 1000 a 3000? Levala proprio. Dire che l'evasione non è vero, che 180, che la stima di quanto è l'imponibile mancato, significa dire guardate che è molto più bassa. Abbiamo spiegato che l'evasione italiana come gettito mancato nelle casse dello Stato viaggia tra i 60 e 80 miliardi, un dato coerente con l'evasione complessiva dell'Europa, che è di 120 miliardi di mancato gettito, visto che noi da soli ci facciamo metà come volume dell'evasione europea, e che questo va preso atto. Ecco perché certi messaggi politici non vanno dati, che sembrano dire ragazzi liberi tutti. C'è l'Agenzia delle Entrate che per un problema che si è creato interamente con i dirigenti, facente funzioni dei dirigenti, è semi paralizzata. Ma diamo questi messaggi. Diamo il messaggio che il problema è che c'è la gente che ha i contanti e non sa spendere. Ma perché uno che ha il contante no? Io non la capisco questa cosa. Hai il contante in banca, vai fuori, lo spendi. C'è una soglia, usare la carta di credito. Qual è il tuo problema? A meno che questo contante, e poi mi levi pure la norma sui pagamenti degli affitti, che non devono essere più tracciabili. Come si chiamano questi messaggi? Si chiamano messaggi di carattere elettorale a una parte del corpo elettorale italiano, va benissimo, siamo tutti uomini di mondo, ma non raccontiamoci e non facciamoci infinocchiare da queste cose, non vuol dire nulla, lo facciamo per l'economia, ma che roba è? Allora, aboliamo le tasse e con il nero ripartirà l'economia da morire, ma va sicuro, da morire, in alcune parti del paese è già così. io non capisco veramente, uno vuole anche avere ragione. Comunque il presidente dei commercianti Sangalli dice: bene i contanti, e quando mai, aggiungo io, siamo in linea con il resto d'Europa. La misura del contante, io la dico così, è una misura attesa, una misura di buon senso, una misura in linea con l'Europa, che in questi tempi di difficile ripresa semplifica la vita delle aziende e certamente favorisce il rilancio di alcuni consumi. Per quanto riguarda l'evasione, ecco, l'Agenzia delle Entrate oggi possiede degli strumenti così sofisticati come lo spesometro, il redditometro, l'anagrafe dei rapporti bancari e finanziari, che conosce vita, morti e miracoli di ogni contribuente. Chiava. Intanto l'Agenzia delle Entrate sta perdendo ispettori di peso, non ha ancora risolto alcuni problemi. A noi non piaceva l'atteggiamento di Befara, ex direttore, l'abbiamo detto più volte, che andava verso la persecuzione di alcuni artigiani, commercianti, studi di settore non aggiornati, non tenevano conto delle difficoltà economiche. Abbiamo sempre difeso e anche attaccato l'atteggiamento vessatorio, ma da lì a dire... Anche Sangalli dice farà ripartire l'economia. Io non, sapete che non ho capito perché se io ho più contanti riparte l'economia, a meno che non ci diciamo una volta per tutte che fa ripartire l'economia in nero. Sta balla clamorosa degli albergatori, io cercherò bene la bocca nei prossimi giorni. Gli alberghi arrivano, ma dove li ha visti gli stranieri arrivare con il trolle pieno invece che di mutande, reggiseni, vestiti di contanti? Ma pagano tutti con la carta di credito gli stranieri, ma sono persone civili, ok? Allora, serve solo a chi vuol pagare, fare il regalo in nero, ripeto, per motivi vari, a chi vuole pagare in nero. E la cosa della tracciabilità, se è nero su nero, ma come lo tracci? Come lo tracci, vorrei sapere? Cioè, se io pago il mio appartamento in nero, come lo tracci? Boh, però tutto tracciato, improvvisamente tutto è tracciabile. Ci sarà un microchip nel contante che non abbiamo visto. Si riempiono la bocca di traffico. Stufe e caldaie Termorossi, una promessa di calore per un amore di casa. Vi presenta Focus Economia. minuti, vedo che molti scrivono, guarda che però i tassisti ci scrivono, i russi arrivano in Italia e pagano in contanti. Ecco appunto, i russi, che hanno un problema anche, tra le altre cose, di embargo, per cui un po' diversa la situazione lì. Allora, ma i russi non erano coinvolti perché gli stranieri non residenti in Europa, gli ex comunitari, avevano un tetto di 12.500 euro di contanti, per cui non è per questo, non facciamoci infinocchiare dalle balle, per favore, un po' di coerenza. Ma va bene dire che uno strizza l'occhio, qualcuno mi dice lei parla come la sinistra del PD, guardi, io ho chiesto prima che venisse allargato il Jobs Act al pubblico impiego, non mi sembra che la sinistra del PD sia di questa idea. No? Che il pubblico impiego dovrebbe essere licenziabile come il privato, questo non mi sembra della sinistra del PD. Se però dico che l'operazione 1.000 euro, 3.000 euro in contanti è una cavolata dal punto di vista economico, che aumenterà il nero, farà ripartire un po' l'economia grazie al nero, e allora lo si deve dire chiaramente che si strizza l'occhio a certe categorie per motivi elettorali, non raccontare la palla che era illogica la soglia dei 1.000 euro, che la Francia ha appena portato da 3.000 a 1.000, che tutti i paesi del sud Europa hanno chissà perché bassa, dove l'evasione è alta, e tutti i paesi del nord Europa dove l'evasione è bassa, bassissima, hanno invece, non hanno la soglia, ma è un altro mondo quello. Comunque, visto che parliamo di Russia, ci spostiamo al forum euroasiatico, perché è iniziato a Verona e si concluderà domani il forum che ogni anno mette assieme vari rappresentanti per parlare dei rapporti politico-commerciali tra Italia e i paesi dell'Unione Economica Eurasiatica, che sono Russia, Bielorussia, Kazakistan, Armenia e Kirghizistan. Ospiti quest'anno anche Cina, India e Corea del Sud, oltre 600 imprese. Questa mattina il ministro Mariana Boschi, domani il ministro Federica Guidi e poi il presidente del Consiglio di Sorveglianza di Intesa San Paolo Gian Maria Grospietro, Romano Prodi, Mauro Moretti, amministratore delegato di Finmeccanica. Siamo in collegamento con chi ha organizzato l'evento, il presidente di Banca Intesa San Paolo Russia e presidente dell'associazione Conoscere Eurasia, Antonio Fallico. Buonasera. Buonasera. Come sta andando? Un po' meglio, perché l'anno scorso c'erano stati, insomma, i problemi erano relativi soprattutto all'embargo con la Russia, a tutto quello che aveva portato. C'è un clima più disteso questa volta o i temi restano sempre identici sul tappeto? Ma il fatto più significativo è che di sanzioni praticamente non se ne è parlato, non perché non esistano, perché esistono, ma perché ci sono dei fattori geopolitici, gli ultimi, di cui lei sicuramente conosce anche il contenuto, fattori geopolitici che hanno allentato la tensione a livello internazionale. Questo è un presupposto che ci induce ad avere maggiore fiducia nel futuro. Il secondo fattore importante è che la crisi nera, quella con meno 3,5, meno 4 di PIL in Russia, non c'è più. Nell'ultimo trimestre di quest'anno si aspettano più 0,2, capisco che non è una grande crescita, ma sarà verso un 2016 sicuramente di crescita, anche se tutti gli analisti ritengono che la crescita non supererà l'1,5-2%. Ma comunque questi due fattori ci lasciano ben sperare, fanno avere agli imprenditori maggiore fiducia e maggiore coraggio, e quindi questa prima città del forum è proprio all'insegna di questa scommessa, di questa ripartenza. Beh, non ce l'auguriamo, anche perché il valore degli scambi, nonostante l'embargo e le sanzioni sulla Russia, tra l'Italia e i paesi dell'Unione Eurasiatica sono 30 miliardi di euro, per cui ci auguriamo che ripartano. Tra l'altro pensate che Lombardia, Emilia Romagna e Veneto da sole rappresentano il 66% di tutti gli interscambi commerciali verso l'Eurasia. Si prendono la fretta maggiore e poi oggi il numero uno di Finmeccanica, Mauro Moretti, ha annunciato negoziati con la Russia, con la russa Rostec, sull'alta tecnologia, un contratto sulla tecnologia con Rostec, e poi una nuova, che Finmeccanica sta discutendo la struttura di un nuovo accordo con Sukhoi Civil Aircraft, che è la principale compagnia che produce aerei in Russia. In bocca al lupo, grazie anche ad Antonio Fallico. Domani c'è la seconda giornata e poi concludete, giusto? Sì, domani sarà la giornata conclusiva. In bocca al lupo, grazie al presidente Fallico. Andiamo adesso alla borsa. Che positiva, più 2% nel finale Milano, più 2,20 Parigi, più 2,50 Francoforte, più 1,50 il Dow Jones, l'euro a quota 1,11, Popolare di Milano meno 3,60, bene invece tutti gli altri titoli, anche la Popolare Emilia Romagna perde lo 0,60%. Che è successo? Eleonora Micheli, Radio Cori, Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera. Poi commentiamo tutti gli altri rialzi, Telecom più 5, Luxottica più 4,80. Ma tutta la borsa è andata bene, sì, sulla carica che ha dato ovviamente Mario Draghi, che ha promesso, certo, nuove misure a dicembre, eventuali nuove misure di politica monetaria. BPM è andata in controtendenza, in verità nel durante della seduta perdeva anche di più del 3,6 con cui ha chiuso, perché si è diffusa la voce che i vertici dell'istituto abbiano incontrato quelli di Banca Carige per un'eventuale operazione, un matrimonio che evidentemente secondo la borsa penalizzerebbe la BPM, che così è andata giù, mentre sarebbe positivo per Banca Carige, che ha guadagnato il 4%. Mentre molto bene oggi, dicevamo, Telecom Italia, ci sono attese sui conti, però abbiamo visto nel passato, nei giorni scorsi, Telecom perdere anche sul Brasile, invece? Invece è scattato un po' il conto alla rovescia per la trimestrale che verrà approvata dal Consiglio di Amministrazione del prossimo 5 novembre, ma soprattutto iniziano a circolare delle note di diverse case d'affari, di diverse banche d'affari, in cui si ipotizza che sì, il Brasile continuerà a soffrire, ma invece il business in Italia dovrebbe recuperare, e quindi la trimestrale potrebbe dare soddisfazione agli azionisti, cosicché già appunto oggi il titolo ha spiccato il volo, soprattutto peraltro nell'ultima parte della giornata. Ancora per quello che riguarda i titoli, segnalo Luxottica più 4,80%, Azimut più 4,17%, generali più 80. Resta con noi Leonora, commentiamo gli altri titoli dopo GR24, dopodiché cercheremo di vedere se in questo programma, non dico in questo paese, ma almeno in questo programma, si possa essere contro una norma che agevola, a nostro avviso, il nero dai 1.000 ai 3.000 euro e chiedere allo stesso tempo anche il licenziamento dei pubblici dipendenti come nel caso di Sanremo. Secondo me in un paese sano le due cose stanno assieme, invece molti rispondono no, fateci fare il nero e tenete i dipendenti e tutelate il pubblico impiego. Pensiamo che la strada per rottamare il paese sia un'altra. Comunque, GR24. Sono Maria Latella e la domenica mattina finora potevamo incontrarci in TV. D'ora in poi invece ci troveremo anche su Radio 24, ogni domenica mattina alle 10, per parlare di donne perfette, imperfette, aspiranti alla perfezione e di come ci vedono gli uomini. Vi aspetto ogni domenica mattina alle 10 su Radio 24. Ascoltaci anche in digitale sul DAB. Il segnale orario vi è offerto da... Stufe e caminetti, la Nordica Extra Flame, il puro calore made in Italy che riscalda la vita. Tutti i giorni alle 9, Mix 24, con i faccia a faccia, le inchieste, i gialli della storia di Giovanni Minoli, dentro la notizia di Mario Secchi, i Salamini di Pietrangelo Buttafuoco, la storia e la musica di Alessandra Fiori e Franco Schifani e tante novità per l'unico programma di Radiovisione. Ascoltaci anche in digitale sul DAB. Focus Economia. E 8 minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni per la seconda parte di Focus Economia. Vorrei concludere l'approfondimento di borsa con Eleonora Micheli per quello che riguarda gli altri titoli oltre a Telecom e appunto alle banche popolari. Bene di nuovo il lusso, diciamo, più di nuovo in rimbalzo il lusso più 4,80% su Luxottica, più 3,30 su Moncler, più 2,60 su Ferragamo. Gruppo Fiat Chrysler, Ferrari continua ad andare bene, rialzano intorno al 5% poco fa a Wall Street. Fiat Chrysler. Sì, esatto, FCA continua a rimanere sotto i riflettori. Se ieri le azioni erano scivolate in borsa nel giorno del debutto di Ferrari, anche a causa magari di qualche switch, oggi invece hanno fatto più 1,3%. Gli investitori si interrogano sul futuro dell'azienda, soprattutto dopo che ieri l'amministratore delegato Sergio Marchionne ha dichiarato che il processo di consolidamento nel comparto dell'auto andrà avanti, complice anche lo scandalo Volkswagen che ha fatto lievitare i costi per gli investimenti di tutte le case auto. In più è arrivata sul fin da poco la notizia che anche i dipendenti americani hanno approvato diciamo, il contratto di lavoro che era stato già siglato dal sindacato UAV. Ovviamente si tratta di una notizia positiva per il gruppo. Insomma, Fiat continua a correre, più 1,3% oggi a 13,65 euro. Ancora sui titoli, oggi ha debuttato Netflix, c'era molta attenzione su Mediaset, immagino. Sì, infatti Mediaset è rimasta penalizzata nella prima parte della seduta, i titoli erano addirittura in terreno negativo, poi hanno guadagnato ma molto meno del listino, hanno fatto diciamo solo il più 0,8%. Si teme in questo caso anche una nuova concorrente Netflix, peraltro i vertici della catena televisiva si sono dimostrati molto aggressivi almeno nelle proposizioni, hanno detto che vogliono conquistare almeno un terzo delle famiglie italiane nel medio periodo. Ancora migliori e peggiori in assoluto nella giornata, Fidia più 13%, Orange più 7%, Digitouch più 5,20%, Telecom Italia abbiamo detto più 5,14%, scusatemi, peggiori titoli, Sintesi meno 15%, Dime Group meno 5,30%, Invest meno 4,20%. Percento. Grazie Eleonora Micheli, Radio Corriere Sole 24 Ore. Ancora sui contanti, a parte che ho visto altre dichiarazioni del Premier su questo, ma mi scrive un ascoltatore: ma allora perché non creiamo dei contanti validi temporalmente, che così uno è obbligato a spendere? Cosa facciamo? Tipo Mission Impossible, che si autodistruggono dopo tre mesi che non li spendi? Questa sarebbe veramente una cosa, diciamo, autoritaria: o li spendi o questi contanti si autodistruggono. Non ho capito, Ma possiamo fare cose che fanno negli altri paesi, insomma, andiamo a vedere come fanno gli altri paesi ad avere un'evasione fiscale che è un decimo, un ventesimo di quella italiana. Uno si può anche copiare dagli altri nella vita, non c'è nulla di male. Detto ciò, noi commentavamo anche il messaggio politico, ma dicevo, vediamo se si riesce a tenere assieme in una puntata la critica al messaggio che arriva dalla scelta sui contanti da 1.000 a 3.000 euro e quindi la critica a una lotta senza quartiere al nero, all'evasione fiscale, a partire da quella alta. E ieri l'Europa ha dato un'indicazione molto precisa sull'elusione fiscale fatta con accordi con i singoli stati, e allo stesso tempo a criticare il pubblico impiego, chiedendo, intanto lo dicevamo in tempi non sospetti, il Jobs Act, se fatto, non va allargato anche al pubblico impiego. Nel caso specifico ci occupiamo di una vicenda su cui è indagato la Guardia di Finanza. In un paese normale, intanto tutti, visto che ci sono accuse di corruzione e soprattutto danni all'erario, e mi riferisco al comune di Sanremo da un lato e all'ANAS dall'altro. Allora, partiamo con questa doppia paginetta. Partiamo dall'ANAS e poi arriviamo anche al comune di Sanremo. No, ci scrive un ascoltatore sul collocamento in borsa delle Poste italiane. Beh, dovremo avere ospite la prossima settimana Francesco Caio, proprio su questo, il numero uno. Comunque oggi si è saputo che il prezzo di collocamento delle azioni italiane, cioè la forchetta cosiddetta, sarà tra i 6,5 euro e i 6,75 euro, e quindi il prezzo si collocherà a metà quasi esatta tra il range, quindi tra la variabilità indicata inizialmente nel prospetto, che andava tra i 6 e i 7,5 euro. L'ANAS, allora c'è anche l'ex sottosegretario del Ministero delle Infrastrutture Luigi Meduri tra i destinatari del provvedimento di custodia cautelare emessi dai GIP di Roma nell'inchiesta che coinvolge l'ANAS. Meduri viene definito un oscuro faccendiere e l'interfaccia politica della Dama Nera. Il dirigente dell'ANAS Antonella Accroglianò, considerata dagli investigatori al vertice dell'organizzazione all'interno dell'ANAS. Lo dico perché la Guardia di Finanza ritiene che non ci fosse un episodio singolo o vari episodi mas collegati tra loro di corruttela, ma parla proprio di un'organizzazione interna all'ANAS per guidare gli appalti e beccare tangenti. Tant'è che il procuratore di Roma Giuseppe Pignatone, commentando l'inchiesta, ha detto: è deprimente la quotidianità di questa corruzione. Ecco, io se dovessi dire la sensazione che mi ha dato la lettura di queste carte, è proprio la quotidianità della corruzione, vista come una cosa normale da ogni giorno. Vediamo oggi che cosa incassa. La nostra principale indagata va in ufficio per lavorare, ma il suo lavoro è gestire questo flusso continuo di corruzione, a volte riuscite, a volte non riuscite, c'è la borsa sempre aperta, si arriva qualcuno e ci mette un abuso. Tratta pure male chi ritarda per i pagamenti, tratta pure male i suoi collaboratori che non sono all'altezza, non nel fare pratiche, progetti, quello secondo quello che so, ma nell'avere a che fare con gli imprenditori e riscuotere le mani. Questa Antonella Accroglianò trattava male i suoi collaboratori che non erano abbastanza solerti, efficienti nel raccogliere le mazzette. Chissà se erano dei criteri su cui premiare poi i dirigenti, anche la velocità di raccolta della mazzetta dentro l'ANAS, che a questo punto sta diventando ciucci. In questo caso lo dico a chi ci chiede, non c'entra, ha già le sue grane, nel senso, però insomma grane relative, anche perché sono 19 anni all'ANAS. Dico semplicemente che la corruttela scoperta, come ricordava Pignatone, era quotidiana ed non era una corruttela sul singolo caso, era proprio organizzata, strutturata in maniera produttiva. Uno potrebbe fare la battuta, era la cosa più produttiva dell'ANAS, è un po' offensiva per tutti i dipendenti onesti dell'ANAS, però vabbè. Dunque, ancora sull'evasione fiscale, mi scrivono molti, vabbè, non posso sapere se le casse di sicurezza dei clienti e le banche siano piene di soldi, il problema Molti scrivono: dovremmo avere una tassazione simile agli altri paesi. Guardate che la tassazione italiana è molto alta per chi produce, per le imprese, per i lavoratori. Non è straordinariamente più alta rispetto ad altri paesi. Il problema è che se vuoi abbassare la tassazione devi utilizzare meglio i soldi, e chiediamo da sempre la spending review seria, revisione della spesa e anche riduzione in parte della spesa. Fai pagare tutti e metti ogni euro raccolto dalla lotta all'evasione per abbassare complessivamente la pressione fiscale di chi, partiamo dai lavoratori dipendenti, privati e pubblici. Così dai un segnale, ma non mi sembra che il segnale politico sia questo. Non voglio fare tutta la puntata su questo. Andiamo sul ministro Del Rio, che invece è interpellato dal nostro Andrea Ferro a margine della presentazione del progetto Fare Scuola all'auditorium dell'Enel. Ha detto: attenzione sull'operazione della Guardia di Finanza, offriamo l'ANAS dalla massima disponibilità. Ho parlato col presidente dell'ANAS Gianni Vittorio Armani. Non si finisce mai, ma noi dobbiamo collaborare perché ci sia grande trasparenza nel sistema degli appalti. Siamo alla vigilia di una riforma epocale del sistema dei lavori pubblici, quindi ho sentito il presidente di ANAS e gli ho detto di garantire, come già sta facendo, massima collaborazione per questa operazione delle forze dell'ordine e della magistratura. E dopo il traffico Sanremo, e poi con un volo pindarico da Sanremo a Francoforte, meglio la Valletta, se non ho visto male. Fluentis, il gestionale che in un'app ti guida nella crescita del business. Scoprilo, fluentis.com. Vi presenta Focus Economia. Allora, domanda: perché cos'è famosa Sanremo? Fino a ieri tutti avrebbero risposto per il casinò. Oggi rispondiamo per il casinò e per il casino, anche, che è il comune di Sanremo. Ascoltate in sequenza il comandante della Guardia di Finanza di Sanremo, Jacopo Allera, e poi il procuratore capo di Imperia, Giuseppe Geremia, che raccontano quanto hanno scoperto 195 indagati, 10 funzionari su un totale di 400 dipendenti. Giuseppe Geremia, scusatemi, ma dicevo, 195 indagati, 10 funzionari, 35 gli arresti domiciliari. Il caso che sta facendo il giro della rete è di quello che addirittura andava, timbrava, poi anzi si faceva timbrare il cartellino da un'altra persona, andava a fare canoa, era un tale genio che poi metteva pure su Facebook le sue grandi performance canoistiche. E questo è un caso, ma ci sono casi in cui alcuni dipendenti si segnavano anche 10 ore di straordinario mai effettuato, soprattutto durante i periodi super festivi, pasquali. Ecco perché dico Jobs Act anche lì, licenziamenti anche lì. Comunque, Jacopo Allera, comandante della Guardia di Finanza, e poi Giuseppe Geremia, che è il procuratore capo di Imperia. Si creano dei veri e propri gruppi di dipendenti che si timbrano a vicenda il cartellino. Ad esempio, un dipendente timbra più cartellini presto la mattina, in modo da consentire ad altri dipendenti di arrivare con comodo. Chi ha timbrato presto la mattina, quindi, ha il credito verso i colleghi e quindi andrà via prima per pranzo. Io mi domando e vi domando, ma è mai possibile che all'interno di un ufficio, anche chi magari oggi non ha commesso reati, non ci si avveda di un fenomeno così grave? Non ci si avveda che, visto il numero, si parla di oltre 100 persone indagate, perché oltre coloro i quali sono stati raggiunti le misure cautelari, ci sono circa 75 avvisi di conclusione di indagine che sono stati notificati. Come ci si può non accorgere di questa abitudine? Come non ci si può non accorgere del deserto che circonda determinati uffici? Caro procuratore Giuseppe Geremia, ovvio che se ne accorgevano anche gli altri, più onesti perché timbravano il cartellino, ma meglio non rompere troppo. Chi paga in questa vicenda è lo Stato da un lato e i cittadini di Sanremo, perché poi quando gli uffici sono deserti ci sono due possibilità: o non servivano i dipendenti, allora licenziamo nel pubblico impiego quelli che non servono, oppure servivano e non facevano il loro lavoro con danno per i cittadini, e a questo punto devi anche pagarne le conseguenze, anche erariali. Non date troppe condanne, fate un danno economico a queste persone che conta molto di più. Dal casino al casino, il passo è breve e non è solo l'accento in questo caso. Sanremo, La Valletta, sembra un programma di turismo oggi. In realtà è che la Banca Centrale Europea si è, non è Geoengeo, si è riunita a La Valletta. Ogni tanto la Banca Centrale Europea fa delle riunioni in uno dei paesi membri. A La Valletta c'è il nostro, non c'entra niente con l'Ordine di Malta, non è assolutamente il cavaliere dell'Ordine di Malta, è l'inviato del Sole 24 Ore che segue da sempre i temi della BCE, nonché corrispondente da Francoforte, Alessandro Merli, buonasera. Sì, buonasera a voi. Cavaliere Merli, buonasera. Allora, mamma mia, hai l'ironia di Francoforte per oggi, io capisco, è più bella La Valletta, è un po' più bella La Valletta di Francoforte, insomma. Certo, ci sono anche 20 gradi in più che a Francoforte, oh. anche se appena finita la riunione del Consiglio della BCE è venuto un bellissimo arcobaleno che ha fatto pensare che con tutte le promesse che aveva fatto Draghi anche la natura salutava queste nuove. Qui siamo all'elegia di Draghi. Però è venuto un temporale tremendo, quindi. Lì sarà stato più Weimar, secondo me, Widmann, scusami, secondo me, a creare il temporale. La Valletta è bellissima. Detto ciò, Draghi ha rassicurato tutti che si continuerà ad agire con quantitative easing che saranno risultati a dicembre, forse lo aumenteranno. Sentiamo questo passaggio. Based on our regular economic and monetary analysis and in line with our forward guidance, sulla base delle nostre analisi economiche e monetarie, il Consiglio direttivo ha deciso di mantenere invariati i tassi di interesse. Per quanto riguarda le misure non convenzionali di politica monetaria, il programma di acquisto di asset sta procedendo senza intoppi e continua ad avere un impatto favorevole sul costo e la disponibilità del credito per imprese e famiglie. In questo contesto, il livello di accomodamento monetario dovrà essere riesaminato nella prossima riunione a dicembre, quando saranno diffuse le nostre nuove previsioni su crescita e inflazione. Il Consiglio direttivo è pronto, se necessario, a intervenire con tutti gli strumenti disponibili all'interno del suo mandato per mantenere un livello appropriato di accomodamento monetario. In particolare, il Consiglio ricorda che il programma di acquisti fornisce una sufficiente flessibilità sul fronte degli aggiustamenti in dimensione, composizione e durata. In terms of adjusting its size, composition and duration. And after a beautiful rainbow blessed Mario Draghi. Va bene così, Alessandro? Non è buono, buono come l'inglese di Draghi, però insomma dai. Anche l'arcobaleno l'ha baciato. Vabbè, adesso vedo che è una cultura pure musicale, cinematografica. Senti, la borsa ha festeggiato, vuol dire che tutti credono che non solo i quantitative easing, l'acquisto dei titoli di Stato da parte della Banca Centrale Europea, delle banche nazionali, andrà avanti, ma verrà forse anche incrementato? Sì, almeno questo è quello che ha fatto capire oggi Draghi. Diciamo che il suo messaggio è stato molto più forte di quello che ci si aspettava, di quello che si aspettavano i mercati, perché si pensava che comunque desse qualche rassicurazione, ma è stato molto esplicito, ha citato esplicitamente la riunione di dicembre e la dipendenza, diciamo, dalla condizione che le previsioni della BCE peggiorino sia sulla crescita che sull'inflazione. Siccome tutti sono convinti che in effetti queste previsioni peggioreranno, a questo punto bisogna trarne la conclusione che effettivamente anche queste azioni poi verranno fatte. Non solo, ma per la prima volta Draghi, oltre ad ammettere che potrebbero ampliare il QE sia in termini di tempo che in termini di quantità e di composizione, ha citato esplicitamente l'arma del taglio del tasso dei depositi che le banche hanno presso la BCE. Questo tasso, ricordiamolo, è già oggi negativo per lo 0,20% e viene considerato dai mercati un'arma molto più potente per fare scendere l'euro, che Draghi ha citato molto chiaramente come una delle possibili cause di un'inflazione e di una crescita inferiore. Sì, perché ricordiamolo che l'euro è salito negli ultimi tre mesi e l'arma per farlo scendere è proprio questa del taglio del tasso sui depositi. Adesso, se questo verrà fatto già a dicembre o eventualmente in una fase successiva, se l'ampliamento del QE non andasse non portasse i risultati sperati, questo non è ancora chiaro, però il semplice fatto che Draghi lo abbia citato, diciamo, è stata una delle cause. Allora, buone notizie su questo arrivano dalla Grecia, dove è sceso ulteriormente il tetto sulla liquidità di emergenza per le banche greche a 86,9 miliardi. Chiarisco agli ascoltatori quello che stava ricordando già Alessandro Melli, cioè la Banca Centrale Europea ritiene che in questo momento il problema ancora grosso dell'Europa, dell'area euro, sia un'inflazione troppo bassa, e che vuol dire che non stanno ripartendo i consumi, e rendendo sempre più negativi i rendimenti sui depositi, cerca di stimolare appunto un po' gli acquisti, di non lasciare per quello che riguarda i depositi bancari a meno 0,20 e di abbassare anche l'euro da questo punto di vista, per vedere se ripartono un po' di consumi e un po' di inflazione. Grazie anche Alessandro Merli dalla Valletta, ti toccherà ritornare però a Francoforte. Da Sebastiano Barisoni veramente tutto, e l'auguro di una buona serata. Ci risentiamo domani dalle 17 in poi, e ci sarà anche la poco invidiabile classifica, anche se oggi abbiamo avuto qualche anticipazione di peso tra Sanremo ed Anas. A domani. Radio 24, la passione si sente.